Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, il subbuglio sui mercati finanziari continua e ci ricorda quanto è mutata l'economia negli ultimi anni, mutamenti strutturali, epocali che certamente si riverberano anche nell'andamento della crisi di queste settimane. È una crisi che in qualche misura ci riguarda tutti, non soltanto perché siamo coinvolti con i nostri risparmi o anche solo con le nostre preoccupazioni, ma perché in qualche misura questo cambiamento dell'economia riflette o è anche determinato dal mutamento del modo in cui il consumatore si muove sul mercato. È cambiato radicalmente il rapporto fra il consumatore e chi produce, e questo è un fenomeno particolarmente interessante, attuale, di cui noi, ripeto, siamo tutti protagonisti. E proprio di questo fenomeno parla l'ultimo libro di Giampaolo Fabris, che adesso vi presento, Societying. È pubblicato da Egea, 518 pagine, 35 euro. Il sottotitolo, il marketing nella società postmoderna, sembrerebbe destinare questo volume esclusivamente agli specialisti. In realtà troviamo qui una descrizione in certi punti davvero divertente, anche per le tante immagini che costellano il libro, le immagini anche di campagne pubblicitarie a tutte noi ben note. Abbiamo una descrizione, dicevo, molto divertente anche dei nuovi tratti della società contemporanea, esaminata nel nuovo rapporto che si è creato appunto tra il cliente consumatore e l'azienda. Un rapporto che rende, per la verità, il consumatore sempre meno cliente e sempre più partner dell'azienda stessa. I meccanismi, le decisioni, le scelte, le preferenze sia dell'azienda che del consumatore interagiscono, e questo provoca il cambiamento che appunto è sotto gli occhi di tutti. Ma sentiamo, a proposito di questo profondo e radicato fenomeno sociale, cosa pensa l'autore del libro. Buongiorno a Giampaolo Fabris. Buongiorno. Professor Fabris, nel suo libro lei a un certo punto parla, anzi quasi all'inizio, della trasformazione del ruolo del consumatore, ricorre a una immagine suggestiva, parla di consumatore per sottolineare il ruolo un po' più da protagonista che oggi il consumatore vuole svolgere. Così? Sì, è così. Siamo proprio a un giro di boa, a mio modo di vedere, rispetto alla vecchia figura del consumatore recettivo, passivo, eterodiretto. Oggi sta veramente nascendo un consumatore nuovo per una serie di ragioni. In parte perché consumare è un mestiere che si è stato appreso, un lungo periodo di apprendistato, e adesso il consumatore sta divenendo competente, più esigente, più informato, con maggiore autonomia, con maggiore discrezionalità, ma anche e soprattutto perché quella asimmetria informativa che ha sempre caratterizzato il rapporto tra produzione e consumo si va esaurendo. Oggi, attraverso la blogosfera, attraverso internet, il consumatore ha la possibilità di avere una quantità di informazioni diverse da quelle che eroga l'azienda, che sono tutte naturalmente all'insegna di una reclamizzazione dei propri prodotti, informazioni che possono anche essere critiche, dialettiche nei confronti delle imprese e delle marche. E questo fa sì che il consumatore oggi abbia la possibilità di una scelta veramente informata, veramente documentata, e che ci sia un processo di empowerment, proprio di maggior potere del consumatore, che è reale, non è la figura retorica e un po' ipocrita del consumatore sovrano che l'economia classica ci aveva insegnato. Come svolge questo ruolo da sovrano il consumatore in periodi di crisi, anche magari spesso psicologica e non soltanto, come quella che attraversiamo in questa fase storica? Ma diciamo, una delle caratteristiche, poi è forse la caratteristica fondativa del consumatore della postmodernità, a cui il mio libro poi è dedicato, è quella di essere nomade in tutti i sensi, nomade nel senso di diminuire la fedeltà alla marca, di fare un continuo processo di sperimentazione ed errore, ma anche di avere accesso a una serie di punti vendita che prima non venivano considerati. Ad esempio, significativo è una cosa degli ultimi mesi, di nicchia ma importante, i farmers market, i chilometri zero, andare a rifornirsi direttamente alle origini dei prodotti, acquistare su internet. ma soprattutto questa comparazione dei prezzi dai vettori aerei agli alberghi ai computer che internet consente di fare. Quindi è un consumatore eclettico, poi che va ai discount per prodotti magari emozionalmente molto coinvolgenti, invece a selezionare negozi di nicchia anche magari molto qualificati, ma dove può ottenere dei prodotti con un miglior rapporto prezzo-qualità. A un certo punto lei sostiene che uno dei tratti caratteristici di questa società postmoderna è l'ironia, che i consumatori premiano chi ricorre all'ironia. Ma non le pare in realtà che nella nostra società, forse in particolare in Italia, non ci si prende un po' tutti troppo sul serio? Sì, ma credo che sia proprio per questa ragione che l'ironia, che ha poca cittadinanza nel nostro paese, pensiamo alla pubblicità, in altri paesi, soprattutto in Gran Bretagna, il vero grande comune denominatore è rappresentato dall'ironia, da noi assente, semmai c'è la comicità, la commedia all'italiana, che sta a indicare, a mio modo di vedere, anche il passaggio da una sudditanza nei confronti del mondo delle merci da trattare con molta serietà, invece ha un distacco da guardare anche, pensiamo alla produzione di tanti designer, di tante aziende, da Alessi a Moschino, che taglia un po' trasversalmente tanti settori merceologici in cui gli stessi produttori adesso mettono sul mercato delle merci con un contenuto ironico, che strizzano l'occhio al consumatore e con cui si instaura una sorta di rapporto di complicità, quell'ironia che è completamente e totalmente assente per esempio al mondo politico, al mondo delle istituzioni, è proprio veramente un altro da sé. Ancora una volta i consumi sono degli straordinari anticipatori, a mio modo di vedere, di tendenze sociali, nei consumi invece l'ironia comincia ad avere una presenza significativa. Il suo libro si conclude con un richiamo al marketing etico. Secondo lei quanto c'è di autentico in questo richiamo all'etica da parte delle aziende, dei produttori, e quanto c'è un po' di opportunistico? Ma questo è il grande rischio, perché mai come in questo momento si è tanto parlato di etica. A mio modo di vedere, parlare di marketing etico nel senso tradizionale è un ossimoro, è una contraddizione in termini, perché quando si taccia di non eticità un'azienda, una marca, in prima fila c'è sempre il marketing, in prima fila sul banco degli accusati. E le operazioni che sono state fatte spesso del cause-related marketing, cioè di sponsorizzare delle cause sociali, a mio modo di vedere hanno ulteriormente accentuato questo rischio e questo pericolo, perché il marketing etico, un'azienda etica, una marca etica è quella che prima di tutto si comporta eticamente al proprio interno, quindi da il reperimento delle materie prime, l'ecocompatibilità della produzione, dei rifiuti che vengono prodotti, l'evitare lo sfruttamento all'interno, una giusta retribuzione. Questa è l'etica che viene apprezzata dal consumatore postmoderno. Poi naturalmente sono apprezzate anche delle operazioni di mecenatismo. Gli inglesi hanno coniato questa bel termine del greenwashing, no? Del lavarsi e pennellarsi di verde, da parte di aziende che invece non hanno nessuna carta in regola, che però si danno una sorta di patente di eticità. C'era una bella copertina qualche settimana fa dell'Economist in cui c'era un'azienda disegnata con le ali da angelo, però che trasmetteva un'ombra in cui le ali invece si trasformavano in corna di un diavoletto. Ecco, questa è la patologia di un marketing puramente cosmetico, e invece il marketing etico in una prospettiva di societying è quello che diviene strategico, che impronta di sé i comportamenti dell'impresa. Grazie a Giampaolo Fabris e buona domenica. Grazie direttore. Un profilo di consumatore completamente diverso, anzi allora non c'era neanche il consumo, ma c'era l'esigenza di mettere insieme il pranzo con la cena, è quello che emerge dal libro di una grande giornalista italiana, Matilde Serao, di cui Avagliano pubblica Nel ventre di Napoli, 190 pagine, 12 euro. La Serao, vissuta tra il 1856 e il 1927, Conte pubblica qui il reportage, e anzi questa è la prima volta che viene integralmente riproposto, il reportage che la fece in occasione della grande epidemia di colera del 1884, che fu uno shock collettivo per la città ma soprattutto per il paese, che dovette fare i conti con le condizioni di arretratezza economica e sociale in cui versava la grande città. E qui appunto la Serao ci dà la descrizione della situazione di allora. Un altro titolo che viene utilmente pubblicato da Vagliano per farci conoscere l'opera di questa grande scrittrice è Il paese di Cuccagna, che rappresenta la trasposizione romanzata del reportage del 1884. Queste sono 560 pagine, 18 euro, e qui si parla della grande passione e illusione di Napoli, e cioè il gioco del lotto. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavo prima della crisi dei mercati. Questa è l'occasione nella quale si parla molto di statalismo, mercato, liberalismo. Il liberalismo è sotto accusa, c'è chi accusa il mercato di questa crisi, c'è chi lo difende, e alcuni si rifanno anche alla figura mitica di Adamo Smith. Allora, per capire un pochino di che cosa si tratta, vi segnalo il libro di Eamon Butler, Capire Adam Smith, Enchiridio, che vuol dire antologia. Per i libri, 124 pagine, 13 euro, è tradotto da Eleonora Ottaviani. Smith scrisse delle opere importanti ma molto voluminose: La ricchezza delle nazioni ha più di 800 pagine, La teoria dei sentimenti morali più di 400, e credo che siano davvero pochi quelli che hanno letto integralmente queste due opere, peraltro fondamentali per la definizione del mondo moderno. E allora questo libro, attraverso la penna di un grande studioso, ci dà la possibilità di avvicinarci a Smith, alla sua vita innanzitutto, ma poi soprattutto alla sua opera, di cui possiamo leggere qui alcuni brani, ma soprattutto possiamo avere una guida ragionata. L'opera è divulgativa, molto chiara, completa, è quasi indispensabile se vogliamo capire di chi si parli quando si parla di mercato, di mano invisibile e di concorrenza. Leggendo questo libro sarà anche sfatato qualche luogo comune, come dimostrano per esempio queste righe sul ruolo del governo, particolarmente attuali proprio alla luce del dibattito, delle polemiche attuali che sembrano voler mettere in netto contrasto da un lato l'intervento dello Stato e dall'altro il mercato. Nel libro quinto, Della ricchezza delle nazioni, Smith esamina il giusto ruolo del governo. Critico nei confronti dell'amministrazione e della burocrazia, egli non è però un paladino del laissez-faire. Crede che l'economia di mercato da lui descritta sia in grado di funzionare e dare i suoi benefici solo quando le sue regole sono osservate, quando la proprietà è protetta e i contratti sono rispettati. Il mantenimento della giustizia e la rule of law sono quindi di vitale importanza. Così la difesa. Di certo non vanno meglio le cose se il nostro patrimonio viene rubato da una potenza straniera, piuttosto che dai nostri vicini. Ma Smith va oltre questo e sostiene che il governo ha anche il ruolo di fornire opere pubbliche e di promuovere l'istruzione. Ci soffermiamo nel secolo di Smith, nel Settecento, nell'epoca dei lumi, con un altro grande protagonista. Questa volta è Voltaire, che incontriamo nel libro di Jacques-Pierre Hamet, Un'estate da Voltaire, pubblicato da Excelsior 1881, 140 pagine, 15,50 euro, tradotto da Anna Benucci Serva. Incontriamo il grande filosofo nel 1761 nella sua tenuta di Ferney, dove ospita due attrici napoletane che devono mettere in scena un suo vecchio dramma, Maometto. Non sono gli unici ospiti le due attrici napoletane, c'è un disegnatore dell'enciclopedia, c'è un ambasciatore di Federico II che chiede a Voltaire di intercedere per una conclusione onorevole della guerra dei sette anni, e poi naturalmente c'è lui, il grande filosofo ormai vecchio, che qui parla con le parole che l'autore, che è uno dei critici letterari della rivista Le Poème, ha tratto dalle sue stesse lettere, quindi parla nel libro con le parole autentiche di Voltaire. E quindi sentiamo queste parole, queste righe, che sintetizzano alcuni tratti del pensiero del grande filosofo. Guardatevi attorno, a Ginevra, a poca distanza da qui, Rousseau schiuma di rabbia contro di noi, ed è pronto a mettere al rogo i commedianti, gli autori, le commedie e il pubblico. L'Europa è dilaniata. Ovunque il dogma che impera è quello dell'odio. Quale dogma teologico non ha portato con sé spargimenti di sangue? Quando il re di Prussia entrò per la prima volta in Slesia, un piccolo borgo protestante, invidioso di un vicino villaggio cattolico, andò a chiedere umilmente al re il permesso di ucciderne tutti gli abitanti. Il re rispose ai delegati: «Se quel villaggio venisse da me a chiedere il permesso di sgozzarvi tutti, sareste contenti se glielo accordassi?» «Sua graziosa maestà», risposero i delegati, «è tutta un'altra cosa. Siamo noi la vera chiesa. È questo che gridano tutti, e dopo la notte di San Bartolomeo. Un giorno niente tabacco, un altro niente attori di commedia, poi niente carpe farcite, infine niente vino. Continuano a litigare. La catena della superstizione si estende di secolo in secolo fino ai piedi del nostro letto, e per le strade delle città c'è odore di bruciato. Siamo circondati da una furia selvaggia, ovunque popoli avvinghiati al proprio odio, miserabili passeggeri. La barca fa acqua da tutte le parti, e invece di portare soccorso, ci rendono terrificante la navigazione». Di Voltaire è stata pubblicata di recente una delle opere più significative, il Dizionario Filosofico, tradotto da Maurizio Grasso, per Newton Compton, 302 pagine, 7 euro. Questa è una delle opere più caratteristiche ed è del 1764, quindi qualche anno dopo la presunta vicenda di cui abbiamo parlato prima. Fu pubblicato anonimo a Ginevra e vi troviamo, come nota nella sua introduzione Angelo Sabatini, i sentimenti, i giudizi storici e i principi teorici sui quali si formò l'ideologia che ha dato vita alla civiltà democratica tra XVIII e XIX secolo. Esercitiamo un totale potere sulle donne, un'autentica tirannia che noi siamo stati capaci di far accettare solo perché esse sono più buone, più ragionevoli, più generose dell'uomo. Tali qualità che avrebbero dovuto dar loro la superiorità su di noi, le hanno invece messe alla nostra mercé, perché gli uomini sono di fatto 100 volte più irragionevoli, più crudeli, violenti, più inclini per natura ad opprimere. Ma chi non parla mai male delle donne, non le ama, perché per capirle ed amarle devi soffrire per loro colpa. Allora, e solo allora, puoi trovare la felicità sulle labbra della tua diletta. Questo era un altro grande personaggio del Settecento, forse il più affascinante e noto a tutti, Giacomo Casanova, e tratta questa scena dal film di Federico Fellini. Lo ritroviamo, Casanova, in un libro del suo biografo più appassionato, forse, cioè Piero Chiara, il grande scrittore di Luino, morto nel 1986. Il libro si intitola Il vero Casanova, pubblicato da Marlin, 162 pagine, 12,50 euro. Si tratta di un'opera del 1977, nella quale troviamo varie riflessioni di Chiara sull'avventuriero veneziano, assurto a simbolo del clima di libertà intellettuale dell'illuminismo. E questo giudizio è confermato nell'intervista che completa quest'opera. È un'intervista che fecero a Chiara per discutere proprio del film di Fellini, perché Chiara non aveva approvato l'interpretazione di Fellini su Casanova. Sentiamo per esempio queste righe. Se Casanova, quando è scoppiata la Rivoluzione francese, avesse avuto una ventina d'anni in meno e si fosse trovato in Francia, sarebbe stato fra i rivoluzionari. Quella rivoluzione lui l'aveva prevista come salutare e necessaria alla Francia, scrivendone 30 anni prima, perché era stato immerso nell'atmosfera creata dagli enciclopedisti, ne aveva portato i principi a Venezia, e a questo si deve la sua incarcerazione nei piombi. Si era iscritto alla massoneria. Quindi era tutt'altro che alieno dal capire che cosa occorreva all'Europa per ringiovanirsi, per liberarsi. Sentiva che il suo secolo era un'epoca di presa di coscienza, di ricerca di quella verità scientifica e filosofica che in effetti ha preparato l'epoca attuale. Casanova non era affatto contrario a questo grande passo in avanti dell'umanità. Lui, che fra l'altro era un plebeo, un bastardo, messo ai margini di un mondo aristocratico contro il quale si era sempre battuto. Qui Chiara parla del giudizio sulla Rivoluzione francese che Casanova diede di forte condanna, ma quando era ormai vecchio al termine della sua vita, esule e amareggiato. di Piero Chiara. È stata pubblicata di recente anche una raccolta di brevi racconti, alcuni brevissimi, uno inedito, si intitola il volume Il verde della tua veste e altri racconti, è pubblicata da SE, 140 pagine, 17 euro. Sono, come spiega Federico Roncoroni nella prefazione, degli scritti pochissimo noti, pubblicati in edizioni fuori commercio o in edizione a tiratura limitata, che fanno gustare lo stile inimitabile del grande scrittore così popolare in vita. E a questo punto il confettino. Passiamo dal verde di Piero Chiara al rosso con una nuova serie di libri per bambini, bambini molto piccoli, di Franco Cosimo Panini, e sono i libri da toccare che incuriosiranno i piccoli per i materiali insoliti che abbigliano e arredano, potremmo dire, i libri stessi, dedicati a titoli classicissimi come Cappuccetto Rosso, La Gallinella Rossa, Il Gatto con gli Stivali, Tre Porcellini. Ciascuno costa 15 euro. E con questo ringrazio Laura Marchesi e Daniele Casagrande in redazione, Giacomo Spunta in regia. Passo la linea al respiro di Laura Bettini. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi do appuntamento alla settimana prossima e vi auguro buona domenica. E con questo passiamo la voce all'informazione sul traffico.